e i gatti lo stesso, i gatti sentono tutto, vibrazioni, con quei baffi che hanno, con le vibrisse, sentono tutto, sentono. Invece quando entra qualcuno che non conosce, allora ti buggi sotto il letto, si nasconde sotto il letto. No, non era come toccare la guardia, si metteva sul tavolo, se c'era qualcuno che non conosceva, lo soffiava. E se ti avvicinavi, prima ti avvisava con la zappa, ti allontanava e poi faceva tatà e ti graffiava. No, questo se no, se sente rumori strani, mi guarda, è un cagone, un fifone. Se qualcuno fa un buco in un muro, per esempio, o stanno facendo lavori lungo la strada, allora sta cercando, si fa passo a passo e cerca campata radio, se ne va sotto il letto nostro, perché lì si sente forse più protetto. Invece di tutti i giorni tipo cane da guardia, non so come da me. I ragazzi hanno un carattere, ognuno di loro ha un carattere. Allora, bisogna solo capirli, ma chi ce li ha li capisce. Sì, all'inizio avete parlato in due. Sì, è così. Ormai lo conosciamo, quindi sappiamo ormai come comportarci di conseguenza, dai. Ehi, quello di Gianni ha soffiato pure a me. Chi sono si guavano, chi si nulla. Allora, grazie a quella di fronte, c'aveva uno Yorkshire. Lo Yorkshire abbaiava, lui si metteva sul tappeto, non si spostavano, faceva la gobba e andava a attaccare, lo Yorkshire se ne scappava. No, questo vabbè, non è abituato neanche a vedere. Una volta mi sembra l'abbiamo fatto giù e c'è un'altra signora che c'è un gatto. Ma giù mai vuole l'infarto. Stava affogando, dobbiamo inghiottire la saliva. No, non è abituato, poverino. E poi la mattina quando mi alzo vuole aprire la finestra perché si guarda il panorama, no? Poi mette le zanzariere. E se vede le cornacchie allora inizia a vibrare col muso i baffi, inizia a fare quelle vibrizie a vibrare col muso. Io fra una volta ho visto questo signore che grazie a terra con questo gatto, ma ce l'aveva guinzaglio, il gatto camminava come il cane, come porti il cane e portava il gatto. E poi gira gira lo faccio anche io, adesso rimetto il guinzaglio e lo porto giù. Adesso vado a portarlo giù come l'ho portato al portone, mi si è attaccato, ce l'avevo in braccio, mi si è attaccato con gli artigli ben entrati dentro la schiena. Cazzo, perché avevo paura che lo abbandonassi del vestito. Noi abbiamo provato, già difficilissimo mettergli la pettorina, perché era una pettorina, abbiamo provato a mettergliela e non la voleva. Poi un giorno l'abbiamo portato giù, ma sembrava un tappetino camminando nel marciapiede, basso basso, paura delle macchine, tutte cose nuove per lui, non le aveva mai viste. Però da quel giorno che adesso a volte mi graffia il portone, che vorrebbe uscire, intanto mi graffia il portone. Ehi, ma femmina! Aspetta, non ho capito. Ho detto una femmina, No, era un maschio. Ah, non ce l'hai più? No, l'abbiamo alleggerito, diciamo. Ah, l'hai castrato? Sì, beh, ci hanno consigliato la veterinaria di castrarlo dopo non mi ricordo quanti mesi, perché in base alla razza cambia, ci sono i gatti che maturano prima e i gatti che tardano. Per non sporcare in casa, se no avrebbe marcato il territorio, invece così, sì, un po' col muso, marca il territorio e basta. Sì, sì, lascia le goccioline di pipì, lascia, e mi avviaggio che faccio, se l'hai fatto bene, il maschio non conviene, io c'avevo la femmina, ero persiano femmina, però il maschio fa quel lavoro lì, io lo stesso l'ho sterilizzata la mia. No, abbiamo fatto bene, poi è diventato un tranquillone così, sempre dormito di giorno, di notte un po' più attivo, però la verità non ha mai fatto danni grossi, dai. Giusto la porta, ma ripeto, secondo me la colpa nostra, l'abbiamo abituato a uscire, adesso gli è rimasta la curiosità. Avanti Natali. Povero gatto. E Natale si deve essere allontanato. Fra, esiste un repellente che tu li metti e loro non ci vanno più. Io l'ho usato perché il mio si aveva preso il vizio di andare quando aprivo gli sportelli della cucina componibile, sotto, grattava. No, questa è la verità, c'hai il tiragrafi, non ha mai rovinato un divano, una tenda, no. ripeto, a volte frega il muso negli angoli delle porte, a volte però intanto quindi devi andare con lo straccio a sgrassare un po'. Sì, ho sentito quei repellenti tipo spray, dai, da spruzzare. Sì, c'è l'attrattivo e il repellente. L'attrattivo si usa per farli abituare a fare la pipì quando lo vuoi attrarre in un posto, no, per dire dove attrarre a fare la pipì dentro la lettiera. Si mette l'attrattivo, io li ho usati tutti e due. Il repellente funziona e non ci vanno dove c'è quello dopo. No, non lo so, no, da piccolo ha imparato subito lui, neanche riusciva a salire sulla lettiera, poverino, ci arrampicava, era più alta di lui. Questo è arrivato da San Luri, tutto sporco, poverino, con questi occhietti azzurri che aveva, occhi da latte, dai. Lui era giallo tigrato, cioè un rosso tigrato. Adesso è diventato grande, c'ha una coda che sembra una volpe, caspettina, però non ha mai sporcato fuori dalla coda. Ogni tanto qualche rigurgito può fare col pelo, dai, perché si lecca lui, si toglie il pelo e a volte qualche cosa lo fa, però niente di che, i bisogni li fa sempre nella lettiera. Lo fai, gatti, devi comprare l'erba gatta, lì si forma nello stomaco, lì si forma un gomito e poi lo vomitano, mangiano l'erba e lo vomitano. Sì, sì, infatti di tanto gliela prende l'erba gatta, sia quella pronta che quella da seminare, in base a quello che trova. Io la compravo, la mangiava e toglieva la lana e poi bello pressato mi è. Si forma dentro lo stomaco perché si lecca dal pelo e poi, capito, rimane nello stomaco. Sì, sì, è proprio una corda di pelo. E così. E perché poi sono molto puliti, sono pulitissimi i gatti, sta sempre a leccarsi, è pulitissimo come gatto. Natali. Sì, già sono qui. Sono in Oghe. Non me ne sono scappato, non mi avete dato il tempo di premere la portante. Dai, dai, riprendi. E cosa riprendi? Boh, mi sto addormentando, non ci credi. Domani va tu, riposaccia, sera. Neanche io. Tu credi, stamattina mi sono alzato alle 4, sono sceso Alghero alle 5, fino all'una e mezza. Sono rientrato, mi stavo riposando, mi ha chiamato quello dell'Enel per cambiare il contatore della tromba delle scale giù del condominio, da cazzo, giù. Vabbè, quindi abbiamo fatto anche quello. E domani nuovo alle 4, uia, tutta la settimana fino a domenica. Alle 4 di manzana, uia. Sì, vabbè, mi alzo sempre alle 5, no, normalmente. Le 4 sono un po' più pesanti. Vabbè, alle 6 già ci sta. Anch'io mi alzo alle 7 e mezza. Stai lavorando o sei in malattia? No, io sono in pensione. Mazza, allora, sei già avanti allora. Sì, sì, oramai è fatta. No, non lo sapevo. Sapevo che avevi intenzione, ma comunque hai fatto bene. Sì, adesso mi danno quella di vecchiaia. Sì, adesso avevo una pensione, diciamo, un assegno. Non lo chiamano assegno ordinario, dai. Sono molto di più di un assegno di invalidità. Boh, non lo so, non me intendo. Comunque, se hai fatto il tuo passo vuol dire che avrei fatto le tue valutazioni, dai. Vabbè, anche perché non potevo continuare con questo ulcero, eccetera, eccetera. Adesso, grazie a Dio, è passata. Grazie a un'amica che mi ha fatto loro collaudare e me l'ha fatto passare comunque. Aspetta, non ho capito come, avanti. Soletta auguri. Grazie. Ma i gonti già fatti di là? Ah? Sì, i gonti di là ne già fatti. Io ho già fatto visita tutto quanto. Adesso sto aspettando la risposta. Sì, ma avete i conti, te li hanno fatti, quanto percepisci in pensione? Ciao, Fra. No, non ne ho fatto di conto. Ciao Cla, no, non ho capito come te l'ha fatto passare, scusa Cla, già. No, non ho capito cosa avesse chiesto. Come te l'ha fatto guarire il piede? Con l'argento colorale. No, non l'ho mai sentito, scusa la mia ignoranza, poi in cosa consiste? Non lo so, lo fanno loro, c'è l'oro e l'argento, capito? L'argento non ce l'ha fatta, invece l'oro me l'ha fatto passare. L'importante è quello che è risolto, dai. Meglio così. Avanti, Cla. Finita, si è innaffiato, mi sono seduto un attimo e ho lasciato la radio accesa e ho sentito il rumore. Va bene già, però canta Vittoria, gli hanno detto nei conti, non canta prima, se non ti vedo di gentile come è venuto a me. C'è una vergogna, c'è un perdere. E c'è anche Natalino. A me mi fanno i conti praticamente. Mi mettono tutti in una, quella di validità con quella di vecchiaia, capito? Tengono conto di una dell'altra. Ti danno il netto della vecchiaia e il netto delle tue non conguaglie già. Quando avrai fatto tutto poi mi darai la risposta. Immagina mio fratello al 1° ottobre. Stessa cosa tua, quella di validità e quella pensionistica. Si è spaventato, 41 anni e 6 mesi di servizio all'AGI, 41 anni e 6 mesi di servizio, si è spaventato, sono veramente vergognosi. E quanto l'hai dato? 1.200. Guarda, ti danno il 50% lordo di quella rimabilità, non il netto, ok, di quello che prendevi prima, e poi calcolano, fanno un conguaglio. Vabbè, lui c'ha 41 anni e 6 mesi più di me, c'ha 2 anni più di me, no, li prende, sì, 1.200, non arrivo a 1.300 euro, vergognoso. Vabbè, lo so, c'è chi sta troppo bene che si deve accontentare, cioè, viva. Purtroppo la vita è questa, da voi non ha vita, da voi ti pigliare per il bondito. È così, è così. E così, io con 40 anni è quello, non ci arrivo neanche, quindi, e vabbè, fortunatamente stiamo bene lo stesso, non fotte nulla. Bene ragazzi, di cosa siete parlando? Di cani, di gatti. E via, dammi uno di gatto, fra, che l'ho avuto dentro il cavello, cazzo, a ver se riesco a mandare via quei topolini, che sciuga. Mi stanno uccidendo. Ogni settimana devo cambiare le bustine. Ci sono questi topolini e non li trovo perché mangiano e se ne vanno, mangiano e se ne vanno. Porca miseria, la raga. Ho avuto per tutte le scatole di cartone fa, per capirlo. Svuotare e mettere, le volevo lasciare lì, nello scaffale. E invece le ho avute tutte svuotare e mettere dentro casa. Perché ogni scatola c'aveva un buchettino, ogni scatola c'aveva un buchettino. Che immaginate? Una volta, sai cosa è successo? Una commessa stava sistemando i salumi nel frigorifero e si è dimenticato, pensando che fosse vuoto il cartone, sicuramente si è dimenticato una mortadella. Questo è successo il sabato. Il lunedì sono entrate, c'erano le diate dei topolini, tutta rosicchiata la mortadella. Sì, lei va bene, in campagna è normale. No, no, questi non è che siano, non che mangiano dentro, ma mi stanno uccidendo, non trovo sporcizia, non trovo niente, però trovo le bustine morsicchiate e evidentemente, fatemi veloce, ma mangiano e ce ne vanno a bere, mangiano e ce ne vanno a bere. E vabbè, ma una volta che mangiano i muri, quindi non è che li venite urla, se fa mangiare da noi, cazzo gli non puoi venire a casa tua a mangiare. E quindi ho deciso di prendermi un gatto e lo metto dentro il cavallo, lo faccio vivere nel cavallo, lo faccio uscire, però la sera lui deve cacciare. Il mio se ne fugge, se vede i sori, che ci vuole un gatto varese, mi aggressi di quelli abituati a cacciarsi il mangiare. Sì, comunque ci vuole un gattino in campagna, ci vuole. Se capita, voi, se ne sente qualcuno, adesso non so se sia periodo però di gatti piccoli. Ormai se ne parla forse la primavera, vediamo dai. Provalo voi, maschio o femmina? Claudio Cartavella! Luca Maturascia, maschio o femmina? Io meglio qui. No, femmina no, no, maschio, cos'è la femmina? Se femmina poi rimane anche incinta e tocca fare l'allevamento degli atti, vogliamo vedere anche poi Filippo come riceve, perché lui è talmente geloso, la persona è sceso con un chissi bincer, piccolini, in braccio la figlia del mio vicino, e si è buttata sopra, cazzo, voleva prendere il cagnolino dalle braccia, dell'incoente che non è altro. Fammi pure a me quanto è iatta. E dicevo che era massimo. Allora mi rimangio di sole, che allora buccia tutto. Figati qualche cinese. E mi vuoi quanto è iatta, non vuoi ugla. Ma te ne è mai crocchetta a mangiare, voglio cara pollo al russo, la poccola al russo, mi ha detto. Divino, dove di tutto, Luca? Non ti conviene, no, figlia la iatta normale. Che risparmi. Cazzo, mi conviene, ma rossita come quelle che abbiamo fatto, mi è Luca, è a posto. Il pollo arrosto, mamma mia, è che purtroppo che la cosa più buona, ecco, tipo delle ali di pollo, vabbè, anche le cosce di pollo, ci mettono un po' di più, ma le ali di pollo sono il massimo. La pellicina croccante, salatina, poco poco salata, non la posso mangiare. Buona resa, eh. Non la posso mangiare, perché ho i calcoli a cistifere, capito? E mi viene mal di pancia, ce la mangio. Lì c'è il calcolo di Rottweiler. Ehi, a Rottweiler. A Cistifele, acca. A Rottweiler. Il Rottweiler, c'è. Eppure, è buono, mazzetta, capocollo. Sei di quello tenero tenero, miruia. Cavallo. Afra, noi ne abbiamo fatto ali di pollo. No, abbiamo fatto pancetta e cos'era? Capocollo? Sì, pancetta, salsiccione, capocollo. No, la mia sorella, che non sono venuti, ha fatto ali di pollo, ma l'avevamo portati loro. E così li faccio io lui. Così, belli croccanti, salatini, belli, belli, belli, belli. È un'altra cosa. Ho visto fra quelle... Quella fra mi hai detto tu, Albi, come stamattina, quello è bevi qua a tre piani. 300 kg pesa quell'affare, come ti ha fatto a farlo? Non so quale modello hai visto tu, ma è muratura, Sì, quelli che ci sono all'ingresso, quello da 179 mi sembra, una cosa del genere. Lui ha scritto 300 kg, io la mare come ti va a piazzare, non ti vuole motocarro a portarlo. Beh, sapete, è stato come si dice, si possono smontare, viene ripiantare, dai. Sì, è bellissimo quello che c'è la fuma del piccolino, molto bella. Fatto adesso lo Stefano, lo chiamo, ma lo faccio portare in settimana. Perché così tolgo quell'altro. E questo è più grande, c'è il piano molto più grande, capito? Quindi viene molto meglio fare quello che abbiamo fatto l'altra volta. Avanti già, riprende, fai girare. Ma quanta volta l'ha fatto questo baracchino? Stai innescando? Tutto questo bip che va a farsi benedire, Non te l'ha detto il cardiogramma, no? Ma vai, è Gianni questo, è già, tu sì. Ma il galaxy di Gianni che va in tiro. Non stai uscendo già. Ciao, no, la benedire la porta mari, va. Metti a folle prima. Non ingrana più. Ma noi siamo per tuo lato, anzi c'è bene, di caso l'ho acceso, mettiamo il canale, dici, vediamo, poi asciuga. La portante fa lo scala, vai, 5, il motore lo mette 3. Va bene, va bene, va bene. Luia. Chi è che mi aggiorna? 18:55. Grazie, Natale. E si conferma, sì, io c'ho 54, però ho scattato adesso 55. Va bene, Gianni, riprendi, aiuto. Io vi lascio però, sapete, io entro, vi saluto per me ne vado, Se ce la fare cose al forno, a proposito di mangiare. Già ci sentiamo, salutami Anna, fra. Grazie, altrettanto da parte sua. Dovrebbe rientrare tra un po'. Anch'io ho fatto la bagna poco fa, mi ha dato una mano Natalino, dai. Oh, Natalino è un grande cuoco, anche lui già si diletta in cucina. Natalino non è cuoco, è poco umane. Ma chi pure tu sai? E lo... Ma è un grano, è cuoco, è poco umane Natalino. Ah, lui sì, è cuoco umane. Ma pigliato l'hai visto di Santa Maria di Pisa, lui, niente sai? Sì, te l'ho preso. Per carità, che schifo sta diventando sassa di cazzo. Allora sono tutti ai matti, oramai a ciaffi non ti finisci uno, oramai a cucchetti. Sì, è vero, ti accontano adesso, ma ti piace a mood, questi ragazzini di oggi che escono e bevono, si ricaglia un modo, basta non capire, finisci di... o ti cudini tutti assieme, o magari o di loro al coltello in tasca, ti fanno i marimi, è un casino, basta uscire, è veramente un casino, perché? Perché non puniscono bene, devono punire bene, quando uno fa una cosa del genere, lo devono punire bene, tipo 30 anni, per gatto, lo uscono i vasini, ma niente, comprendono non i vasini, sti cazzati. La pistola ci vuole, quando uno ti punta il coltello è un uomo morto. Ah, perché c'è il bicchiere, il bicchiere, la bicchiere, e andremo tutti in camera di Vassamà. No, lascia perdere, no, cari, se no non sai cosa piedi veramente, sta diventando troppa delinquenza, c'è cioè, sto sentendo cose veramente allucinanti. Vabbè. Io vi saluto, se coincide ci aggiorniamo dopo, altrimenti ritenetevi todos salutados, ok? Ciao ciao! Ciao ciao Claudio, buonasera! Ma che è successo già? Ciao Claudio, è brutto! Questo c'è Salenta? Ciao! Ma c'è il dubbio, ma è molto più bella la modulazione, amici, Salenta col Galaxy rispetto all'altro. Sì, ma il colore deve avere la mela che tocca e non tocca, a volte se ne sceglieva la portante parlando, capito? Ma questa è favolosa, cioè bella corposa, bella forte, più bella dell'altra, mi piace di più, vero fra? Non c'è paragone, no, non c'è paragone. Veramente è bella, anche troppo forte qua, sì. Ciao, passo. Ah, senza riuscire al combattimento, bugatini di gufi, bra. È bellissima già, veramente, complimenti. Io avrei usato questa. Il Tamer c'ha molti acuti, però la modulazione rimane più stridula. Questa è bellissima, fortissima e bellissima. Perché la mia stridula è? No, la tua è amplificata, normale, ma quella di Gianni col Galaxy, boh, io no. Infatti il Tamer P3 non lo sto usando col Galaxy. Ho tolto la batteria, l'ho conservato, ho messo il Savelta, anche io c'ho il Savelta Master Plus, capito? Quello che c'ha l'Eco, che c'ha il Tony, quello lì, e va molto meglio rispetto al Turner. Manca paragone. Ma lo sai quale microfono ci vuole per il Galaxy, quello che avete voi? Lo Shooter. Desi a zero, muro a rugoso, a rudarne li vado. Io li ho provati tutti e qua il meglio che andava era lo Shooter. Io lo Shooter ce l'ho una scrivania, ma dice un microfono, bah, è troppo grande. Ma la Savelta, ti dico che col Galaxy è veramente eccezionale, qui basta sentire a Gianni, io vado a giocare nel bigliato dentro l'armadio, io di solito io sempre il K, però col Galaxy Savelta funziona molto bene. Vi saluto, un abbraccio a tutti, circolare e ci sentiamo dopo se ci siete, ciao. Ciao, ciao, Cla. Ciao, Cla, un abbraccio a tutti, alla prossima. Dai, ve lo presto allora, dai, fate un po' per uno. Vabbè, dai, ciao Claudio, alle prossime. Vi saluto anch'io che me ne vo, che è già arrivata l'ora che devo fare roba. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, Atari, buona serata, avanti, Cla. Ciao, grazie per la compagnia di tutto. Se c'è ancora Luca? Ci sei Luca? Quando mai? Ma qualcuno sta parlando sotto? Ho sentito un bip in sottofondo. Avanti, chiami il fatto. Quindi Fra, confermi che questa fa migliore la modulazione delle entrate. Sì, sì, no, è ottima, è buonissima, perfetta, pulita. Io la rilascio in questo, perché il Tanner non è tanto difetto. C'ha quelle lamelle che tocca e non tocca una volta, le hanno intatte, fatte, ogni volta tocca. È un sistema strano che c'ha. E anche questo c'ha quelle specie di linguette tipo puntine di moto. Esatto, sì, così. Se non sbaglio questo quando lo usava, diciamo, la via 50, quando lo usava a casa sua, si erano rotte, non so, una o due lamelle, non so chi gliel'aveva riparato, non mi ricordo, però si sente che non ha più la spinta di prima, quindi le molle non sono più, diciamo, caricate come prima, le lamelle devono essere leggermente più dolci come metallo. Ma la volta si è fossi. Ma alla voce sì, però mi accorgo che il PTT non rimane più a molla come prima, è più leggero, infatti come lo tocchi appena già sta entrando la portante. Vabbè, è molto più sensibile adesso, dai. Anche troppo, però va bene, dai. Credo che siano varie lamelle, non è solo una unica, sono tipo le balette delle macchine, dei camion, dai, sono due o tre strati, diciamo, per essere più reattive. Sì, sì, è così, io l'ho aperto. Sì, adesso, ma così mi ricordo, sono da tanto che non lo apro. Giusto per cambiare la batteria, ma c'ha lo sportellino sotto e basta, va. Ma dura un sacco di anni la batteria. Sì, anche qua, anche a Savelli. No, va bene. Si sente anche un leggero eco, se non sbaglio, no? Sì, c'è un eco, qua, posso anche far sentire. Ora. Così è più alto, va. Così dovrebbe andare bene. No, ma no, non disturba, perché a volte ne utilizzavi qualche altro che ti copriva la modulazione, questa invece non dà fastidio. Perché avevo un altro pezzo, no, perché era nata quel ruisca. Non mi ricordo quale usavi a volte, che uscivi forte, però dava problemi proprio a capire la modulazione. L'eco copriva un po' la voce. Questo invece è perfetto, un leggero reverbero proprio che non dà fastidio, anzi è piacevole da sentire. È regolato bene, dai, mi sono ascoltato le cuffie, l'ho regolato così. Aspetta che attacco un po' a vedere come va Ruiz, se è ancora vivo. Io vado a assaggiare il sugo che ho fatto, adesso che è freddo, ma lo assaggio a vedere. Attenzione Franco, mi ascolti, cambio. Questo è Ruiz. Prova, fa passaggio lungo. Ehi, guarda, come sta andando? 1, 2, 3, prova, adesso sono 100 anni che non attacco. No, va bene anche questo, caspita, esce forte anche questo. Questo è un bel apparecchio, mi è piaciuto, me l'ho comprato, l'ho pagato, detto che l'ho pagato, ma io, sai, c'era ancora un bel di gente, un bel po' di gente che stava entrando, quindi me l'ho preso adesso non fare più uno sbaglio del genere, perché non sta entrando nessuno, tra poca gente. Ma il Ruiz è grande, no? È grosso come apparato, se non sbaglio. È un base, c'ha tre strumenti verdi, un bel bello, i laterali in legno e la parte superiore in ferro, in maniera nera, dai. No, c'è bene, caspita, non è a valvole, o sì? No, è transistorizzato, però c'ha due modi di usarlo, cioè c'ha due correnti, c'ha la 12V e la 220. Adesso lo stai usando, 220? Adesso è a 12. A 12. E la potenza è la stessa, sia 12 che 220. Come? La potenza è uguale. Sì, non cambia nulla, va bene sia in un modo che nell'altro. Chi ce l'ha qua? Forse ce l'ha Claudio il Ruiz, può essere. Claudio ce l'aveva, l'avevo comprato io, poi l'aveva dato, non ce l'ha più, no Claudio. Se non è che ne abbia dato un altro, non lo so. No, non lo so, era una domanda, mi ricordavo qualcosa del genere. Forse l'ha avuto, come dici tu. È il numero uno, lo chiamano il numero uno dei baracchini, così. Beh, Ruiz, Ron Ruiz. Sì, allora lo era. Adesso magari il numero uno, mi sa che c'è il Galaxy DX, non so se tu l'hai visto. Quello lì a me mi piace un bel, mi sta imporrando quel baracchino, mi piace troppo. Troppo mi piace quel baracchino. Non c'ho più tempo, non c'ho più spazio per metterlo, però è molto bello. E come rimane? Da base? Sì, alla base, lui, se lo vedi, c'ha, come si chiama, vabbè, dopo quando me lo ricordo te lo dico. Ma si assomiglia a Saturneco, come dimensioni, più o meno. È un Saturneco modernizzato, c'ha un display allucinante, capito? C'ha l'analizzatore di spettro, tutto quanto, vabbè. Ah, mi sembra che stavamo parlando da poco, forse con Roberto. È un prodotto di serie o un prodotto fatto, diciamo, da qualche radioamatore, qualche amatore, diciamo? È fatto quasi tutte le che lavoravano prima in una fabbrica di questo genere qua, di baracchini e roba del genere, poi si sono allontanati e hanno fatto questo apparecchio. Sì, sì, ho sentito, per la musica cifra di? Non lo so, io adesso l'ho visto senza le manopole, poi ho messo un prototipo con le manopole particolari, pure venne tutto illuminato azzurro, basta, troppo bello. No, ma che sei rimasto incantato, dai. È bello, ma purtroppo la gente è quello che se ne poca, capito? No? Spendere tanti soldi, ma io l'avrei anche comprato, capito? Ma spendere tanti soldi per non usarlo. E quello è. Adesso vedremo, magari come cambia il tempo qualcosa in più si vedrà. Magari infatti adesso come piove, ma il tempo sta cambiando in peggio, visto il danno che ha fatto la Teroce e via dicendo, Alghero, ha rovesciato un aereo ultraleggero. Ah, noi eravamo a pranzo in un locale sul mare, lì in Binessa, all'Alghero, alla Conchiglia. A un certo punto mi sono messo a tenere le vetrate perché sembrava che dovessero esplodere da un momento all'altro, le vetrate in cristallo. Alla fine il titolare del locale, del ristorante, ci ha fatto alzare e ha detto no, usciamo via da questa stanza, ci ha messo verso una stanza vicino alla cucina. Siamo rimasti lì un quarto d'ora perché proprio c'era il rischio che esplodessero quelle vetrate. Sono cose strane che stanno succedendo in questo periodo. Terremoti, e quello e quell'altro, e vulcani in eruzione, la natura si sta ribellando. È altro, la colpa dell'uomo, purtroppo stiamo cambiando noi le condizioni climatiche, ci stiamo tropicalizzando. È logico, se noi iniziamo a svuotare sottosuolo, togliere tutto, acqua, petrolio, cose varie, prima o poi il suolo cede, quando cede si scatenano terremoti e cose varie. Purtroppo finché esisteranno ancora queste cose qua, guai, è la rovina dell'uomo. Sta scaldando tutto, il mare, le temperature, queste cose prima succedevano solo nei Caraibi. Queste trombe d'aria, questi uragani così. Adesso invece ci dobbiamo abituare. Visto la latte dolce ha portato via un tetto intero. Ehi, ha fatto un po' di casino, ha buttato tegole. Deve essere passato proprio lì la tromba d'aria. Ma so che anche Alghero ha fatto un casino, barche rovesciate, di tutti di più. Ha beccato una ragazza in pieno, infatti ci sono stati un paio di soccorsi dei vigili, forse della capitaneria. Qualcuno che ha disalberato, anche gli ha spezzato l'albero della barca a vela. Però fortunatamente i soccorsi sono andati tutti a buon fine, tutti salvi. Si sta proprio ribellando al 100% la natura, un casino, E vabbè, e che si può fare? Ha cominciato dalla volta che l'ho trovato io, la tromba d'aria non l'ha fatto preso a lavorare, da lì ha cominciato tutti i casini. E lì me la sono vista brutta, un albero mi è caduto davanti alla macchina, l'ho fatto tempo a sterzare e mi ha preso con il ramo, la ruota mi ha buttato fuori due pattane. Ma almeno mi sono salvato. Sì, anche Alghero ha fatto danno. E me lo ricordo qualche anno fa, io stavo rientrando da Nusi, mi sembra, passando via Sennuri, ma c'erano i cazzoletti che camminavano da soli per le strade, era un disastro proprio. Sì, anche la volta che l'ho trovato io, che non camminavano i cassonetti da soli, sono sui vidriati lì, mi è arrivato, oltre che stava, che c'era vento e cose, stava piovendo a dirotto, un uragano, mi copriva il cofano della macchina, l'acqua, se camminavo con il cofano coperto di acqua. Ieri le macchine che c'erano sul Lido ad Alghero sembravano intonacate con la sabbia, perché tra la pioggia e la sabbia che veniva, sparata col vento addosso alla macchina, rimaneva attaccata alla macchina, sembrava che avesse nevicato. Tutte le facciate, fiancate, rivolte verso il mare, erano intonacate di sabbia. Allucinante, va. Contro la natura non puoi fare niente, non puoi fare nulla. Meno male è durato poco, diciamo un quarto d'ora, 20 minuti, non di più. Ma ci hai visto, poi quando è pratico, poi per vinto arrivare, non mai tra giudizio, ciao. Poi ho visto i tavolini che diciamo, del terrazzo di fuori, che camminavano da soli, tavolini e sedi, che ci porta via tutto, ho detto. Qualcuno addirittura si è spaventata di brutto, stava andando, come si dice? Sto tipo sotto shock, qui. Non dico, l'abbiamo preso a schiaffi, ma quasi. Ho detto, anni Ravvini. Beh, c'è chi è più sensibile, magari certe cose le fanno più paura, dai. Sì, era proprio scioccata, terrorizzata. Ci vuole un po' di sangue freddo, magari. Io stavo tenendo le vetrate, lì le stavo tenendo, ma le faceva rientrare, diciamo, la parte centrale. Si imbarcavano di 4 o 5 centimetri, detto, ma qui, poi ho visto che c'erano i furi delle maniglie, quindi il cristallo è, anche se sono cristalli temperati, minimo era un centimetro e mezzo, boh. Allora ci sono i buchi dove ci sono le maniglie per infilarci il dito. Quello è un punto di rottura, potrebbe essere un innesco di rottura. È andata bene, dai. Anche loro, la vetrata è nuova, non sappiamo quanto possa reggere. Perché se erano altissime, forse penso sui 3 metri di altezza. E poi i pannelli, quelli scorrevoli, erano non tanto larghi, sui 70-80 centimetri, da meno di un metro. E si piegavano di brutto, cavolo. Fra, contro la forza della natura non puoi fare niente. Non puoi fare tutto nulla contro la forza della natura. La natura distrugge tutto quello che trova, non è che vento, pioggia. Quella volta che stavamo alla forza attuale, se mi ricordo, c'era un tipo in motti, non so con che coraggio, cazzo. C'era l'acqua che mi fluiva da una parte delle campagne, scendeva giù nella strada. C'era acqua sporca, marrone, cose, tutto fangoso, un casino, guarda. Sì, sì, ripeto, la colpa è anche nostra. Con questo inquinamento, stiamo scaldando tutto, boh. Ghiacciai che si sciolgono. Dove andremo a finire, chissà, i nostri, non dico i nostri figli, ma i nostri nipoti, che fine faranno? C'è che vogliono trovare i rimedi, adesso vediamo un pochettino. Sì, ormai, insomma, anche noi, cioè, ormai ogni famiglia c'hai due o tre macchine. Prima c'era una macchina, ma quando c'era, per ogni famiglia, se no a piedi o in moto. Adesso ognuno c'ha la sua macchina. Te ne accorgi, non trovi più un buco per parcheggiare. Quando io sono arrivato qua, in questa zona, diciamo, mica c'era problemi di parcheggio. Oh, tutto vuoto. Ho delle foto. Adesso fatichi a trovare il parcheggio sotto casa. Ma spegni il telefono. Chi è? Buonasera, ok, stazione Urania da questa zona scappa. Buonasera, mi serve un QRK di Sierra e Romeo, se possibile. Avanti con la buonasera. K, ho capito Urania, se non sbaglio, forse ho capito male. E ti ascolto un po' bassino, ma per colpa mia, perché non ho l'antenna sul tetto, sto usando un'antenna, diciamo, sul balcone. Il segnale quindi è 1 e la radio di 2-3, di più non posso darti. Avanti Urania, se non sbaglio. Franco, sto chiudendo, dai, che sono a 3. Ehi K, c'è un abbraccio. Ok, va bene, lo fai, è importante che sì. Perfetto, dai. Niente, tutte le vanno qua con un segnale di 7 circa e una rete di 4K, ok. Sei il cambio. Io sto usando una cosina di, insomma, un po' di vitamine, sennò anche a me magari mi ascolteresti più basso sicuramente. Anzi, se vuoi facciamo la prova, aspetta che provo a abbassare. Allora, vedi un po' quanto è sceso. Ha voglia, si è abbassato. Prima arrivava i 6 di segnale, una rete di 4, adesso con lei staccato segnale di 1 e radio di, è una rete di 2, è 1 anche, bassissimo. Infatti, quindi sono, diciamo, penso che anche tu adesso stai uscendo liscio, dai. Quindi sono nelle tue condizioni adesso, dai. Sì, sì, io sto uscendo liscio, capo, con i soli parte dell'apparecchio, ok. Niente, va bene, ok, perfetto. Riattacca, se non ci sento troppo basso. Ok, d'accordo, così dovrebbe andare bene. Sì, no, ripeto, purtroppo la mia antenna non è sul tetto, quindi perdo un sacco di... sia in trasmissione che in ricezione, purtroppo. Di buono che non ho QRM, quindi anche se mi arrivi un segnale di uno ti ascolto, eh. Eh beh, ovviamente, cioè non è l'antenna fuori, ma l'antenna vuole fuori, come mai ce l'hai dentro questa antenna? Mettila fuori, metti l'antenna che vuole fuori, scappa, non dentro. Dentro non va bene, perché come sai, è come diciamo, la ricezione e anche la trasmissione, diciamo, non rende niente, ok? Perfetto, noi sto facendo liscio con i soli watt dell'apparecchio, beh, sta apparecchiando circa sui 50 watt, ok? Perfetto, a te cambio. No, io quando ho sganciato ero con 4 watt, l'ho abbassato a 4 per pilotare la scarpetta, dai. No, non è dentro a casa l'antenna, diciamo è davanti alla finestra, è un'antenna davanti alla finestra, però non supera il palazzo, diciamo, e quindi non propaga bene. Ok, ma che antenna stai usando? È un'antenna che è autocostruita, tipo Game Master, diciamo che a volta, spalmata su una canna da pesca da 8 metri. La solita Game Master, imitazione Game Master. Ah, ho capito, stai usando un'autocostruita. Per essere un'autocostruita, diciamo che va bene, per caso ovviamente. Dice, ma quella se la metti, diciamo, se la metti sul tetto va benissimo lo stesso, perché adesso ovviamente se vai liscio, diciamo, non va bene, quella lì vuole in alto, ok, almeno un 3 metri, diciamo, o anche 4 metri dal tetto, ok, ma se uno, diciamo, preferisce così va bene, anche così è importante, diciamo, fassi sentire, ok, a te cambio. Comunque Franco da parte mia, forse non ti ho detto neanche il mio nome. Tu, se non sbaglio, sei a Ugilo, giusto? Confermi? Roger accento, a Ugilo, centro storico. Vedi, anche se sei in alto, purtroppo io non arrivo bene lì. Ma non solo da te, arrivo male a Sorso, arrivo male anche a Muros. Però con un piccolo aiutino mi faccio ascoltare, dai. Giusto per farci due chiacchiere. Vabbè, come va lì a Ugilo? Lo fai, lavori? No, negativo a lavorare, magari. E io adesso ho la mia età, quindi lavorare adesso è finito, ok? Sto aspettando fare qualche domanda di pensione, ma lavorare per me adesso è passato, ok? Perché sono una certa età, ok? Oltre mezzo secolo è passato, ok? Perfetto, ma come cos'è? Qualcuno ti rompe le scatolette, diciamo, piazzarla sul tetto questa antenna qua, come questa situazione? No, negativo, no, non per quello. È che no, non abbiamo un accesso al tetto. Bisognerebbe togliere le tegole, non abbiamo, diciamo, una botola, non c'è niente. E poi ci vorrebbe anche un palo un po' importante, perché non posso attaccare l'antenna della televisione, che penso che non regga, dai. Non mi va di fare lavori così del genere, per adesso, a meno che non facciamo dei lavori grossi sul tetto, che si decide di cambiare qualcosa, allora si potrebbe inserire un bel palo magari, come dici tu, da 4, 5, 6 metri magari, e metterci l'antenna sopra, sicuramente cambierebbe dal giorno alla notte. A voglia se cambia, ma di parecchio cambia, di parecchio. Così l'antenna non lavora bene, è inutile. Vabbè, ognuno si arrangia come può, come si dice, e niente, vabbè, l'importante, diciamo, arrangiarsi dopo, piano piano, più avanti, magari verrà qualche occasione più aperta, diciamo, per fare qualcosa che è di importante, ok. Perfetto, a te cambio. Dai, in attesa di cambiamenti ci accontentiamo. Nato qui a Sassari, dai, siamo quattro gatti, quindi ci ascoltiamo abbastanza bene. Logico, non riesco a uscire molto fuori, a meno che ci sia propagazione, allora non c'è problema. Mi ascoltano anche fuori, con la propagazione riesco a collegare quasi tutto, dai. Quelli che arrivano qua riesco a sentire anche a me, perché ho collegato quasi tutta l'Italia. L'altro giorno addirittura c'era, se non sbaglio, Pantelleria, che è un'isola molto a sud, quasi in Tunisia, invece è raro che collegarla con la Sardegna, e ci siamo riusciti insieme ad altri amici qua di Sassari, da avanti a te Urania. La propagazione favorevole, diciamo così, che diciamo proprio espansiva, diciamo, è possibile sì, ma possibilissimo, ok, cioè la propagazione diciamo è scarsa, diciamo è vai e vieni, non collega un accidente, ma se diciamo favorevole, diciamo buona, allora sì, non c'è niente di strano su quello lì. Perfetto, ma stavo dicendo, ma in quale zona sei di lì tu? Di Sierra, magari sei di Sierra, le prendi? Io sono Monte Basso. Ah, Monte Basso, ok. Il Monte Basso. Dove c'è il Sacro Cuore? Sì, infatti ero in Tunisia adesso, mi ero verificato, sì, il Sacro Cuore, conosco quella zona, la conosco. La conosco benissimo, che ci ho lavorato per circa 4 anni in quella zona lì, vicino, diciamo, stavo lavorando io vicino al deposito, diciamo, degli autobus, dei pullman dell'FDS, quindi ero vicino lì, ogni tanto andavo lì, c'è un circo, mi pare che è il bottuto, andavo lì. Qualcosa, ok, tutto qua, a te cambio. Capo, mi devo scusare, qua è arrivata gente, ti devo salutare. Dai, un abbraccio e spero di ascoltarti alle prossimine, ok, a te ancora. Ok, allora, buon proseguimento di serata, grazie delle due chiacchiere e ci sentiamo alle prossime. Ciao, buonasera, buon proseguimento e buona chiacchierata allora, ciao. Ciao. Io poi lo capisco, però andava a chiare, diciamo, diciamo, una diretta di casa. Adesso migliorato perché rispetto a questi clienti va bene. Cappa, allora, la chiesa Giovanni. Allora, diciamo, di antenna, magari non c'è l'antenna alta, diciamo, di piantata. Tutto come c'è da su qua c'è arrivato un passino ballo, diciamo qua è solo più di popolazione, diciamo nel distante, diciamo della popolazione, diciamo che c'è un segnale, però diciamo se vai a un segnale di due e c'hai una rete di 6 dai. Però diciamo fuori di Belam, diciamo del letto, ok, tutto qua, però diciamo sei comunque niente di che, tutto il suo a te cazzo e ok, perfetto. Allora se dai il virus cade il suo perché questo non è il microfono originale della parete. Da un microfono normale non è che si puoi, diciamo, lo puoi prendere questa cosa, la modulazione è quella che è. Adesso vedi, sviluppo, cade il microfono e dopo vedrai se c'è molto qualcosa di differente rispetto anche lui non cade. Ecco qua, abbiamo cambiato il microfono, adesso vedo un po' come ci sta arrivando di radio, vedi un po', 2-3 prova, a te cambio di mano, riprendi. Ah, ecco, visto, te l'avevo letto io, il microfono normale, diciamo, non è che, sì, esce, sì, però non ti dà le prestazioni che deve dare, diciamo, da questo microfono del tuo svolverso, perché io non so se tu lo conosci, io sto usando adesso il farmer più 3 sto usando, ok, tutto qua, cazzo, un vecchio microfono di vecchia razza, niente, tutto qua. Ovviamente questo è un microfono da molte più prestazioni di un microfono normale, ma diciamo al 100%, ok. Perfetto, va bene, te lo sto dicendo io, così è stato, visto? Va bene, prendi tu allora per qualche altro passaggio. Mi dirò che antenna stai usando, te il cambio. Ok, Roger sì, sta usando una mantovatura, una buona antenna quella lì, una buonissima antenna, Roger, niente da dire su quell'antenna lì, è abbastanza, quell'antenna abbastanza Roger K, ok. Niente, io sto usando una antenna, sto usando una LEM Super 16 K, niente di più, ok, l'apparecchio diciamo così, è un apparecchio diciamo professionale, ok, non sto usando paracchini, sto usando un apparecchio professionale. Cappa a Roger, ma anche se avete 3 canali quello stai usando tu, va benissimo lo stesso, l'apparecchio sta funzionando benissimo, ok. Niente, tutto qua. Cappa, a te cambio. Adesso sei avanzato di segnale, adesso mi sta arrivando con un segnale di 6, mi sta arrivando in orario. È un orario di 5K, Roger, hai notato il segnale che è un po' di radio, segnale di 6, sentiamo 6, è un orario di 5K, abbastanza ottimale, dai, ok, niente, tutto qua, a te il cambio. Ok, mi pare che qua ci sia stato un break da poc'anzi, vediamo un po' avanti il break, buona buonasera. Thank you. Salve, sono Tony Cordiale qua dalla Collietta. Ok. Perfetto, allora Claudio, cerca di migliorare la tua radio perché stai strappando, non sto uscendo chiaro come l'altra volta che ti ho sentito tipo un discorso, stavo uscendo benissimo un discorso, invece adesso stai strappando, regolati un po' la radio perché non stai uscendo bene di radio. Ok, va bene, però se la fuori Giovanni, niente, dai, riprendi Claudio e cerca di migliorare la tua radio, ok, a te cambio. Bellissimi, bellissimi, ce l'aveva lavoro qua una volta che c'era un vecchio CP che adesso non c'è più, insomma la sassa è quello lì adesso e aveva abbandonato tutto, no, non c'è più niente, c'è rimasto l'antenna qua solo e niente, dai, sta tutta malandata e niente, quello lì ha vita diciamo a Sierra Sierra adesso, manco più qua a Sierra Ultimo, quindi niente, aveva già abbandonato la prossima prima di trasferirsi a Sassari, vabbè, niente, a te Claudio, riprendi. Sì, sì, da, da, così, ci è mancato un po' di questi apparati, di questi comunicati, di questi giudici, sì, una volta l'aveva comprata da questo cittadino, si è mandata per corno, illuminativo, mi sa quando io ero appassionato, credo, non sapevo cosa che non da qua, perché l'anno lì, io ero piccolino e l'avevo comprato, capito, è un gare, è quello che era un racconto, e lo abbiamo ancora, sì, e poi un altro l'aveva comprato, grazie al principio di Sassi, che aveva comprato uno scopo di radio, insomma, a delle belle carte, perché si chiamava Principe, illuminatissimo, insomma, il giorno 2010 che lo aveva comprato, e lo funzionante, quello, sì, che non era la tanto, un altro uso, e poi un altro che mi hanno regalato, un marchesotto, ancora più vecchio di questo, perché non manca il ventatore, c'è soltanto il volume dello sfondo, però è tutto diverso, la 25 lì è bellissimo, è quello, e poi un 35 che ci hanno regalato, funziona anche come stiamo usando l'altra sera, un numero 4, uno da metà porto, e un altro, uno per 4 da metallo, credo che funziona anche più che c'è, cosa volevo dire, più un anno, anzi, almeno tre, volevo dire, sì, che faccio un caro, mando un'altra radio, praticamente me l'hanno regalato, il mio il console 1, bellissimo, perché io possiedo il console 1, adesso mi devo regalare il console 2, il multicanale, bellissimo, non è valvolare, quindi ho tutto fatto con quella grande, la stazione base, bellissimo, la SPR, mi trovo, mi viene qui, molto bello, perché quello sì, è attaccato, perché già adesso è una palette compact 25 kg, ma uno si sta usando, il microfono è modificato da della radio e una pantina di qua dell'antenna, queste sono le condizioni della morte, quindi a quel microfono di mauro malissimo, perché mi sono salito a saltare 5, mi sono lì, però è un microfono bene, mi faccio più rumore di sottofondo, mi dico di tutto, non so cosa ti è successo, segnale, mi sembra che saltiamo io adesso, hai sicuramente qualche problema, non so se hai il microfono, magari hai qualche cosa di distazionale, controlla il cronometro, riprendi, hai il turbo, non è uscendo bene, ma adesso si sta usando la radio, è molto buona, super 5, il tipo di radio, stiamo proprio meglio di come ci ascoltavo prima, se stai andando bene, riprendi. Sempre lo stesso segnale, però la modulazione non è molto chiara, però già è comprensibile, già è comprensibile, una modulazione un po' diciamo troppo cupa, c'hai capito, la modulazione non è stanza, non è chiara, è cupa la radio, capito, però si sente bene, può andare anche così, ha detto che stai usando un cable, che tipo di cable, a te riprende, il 140, aspita, un bellissimo apparecchio quello, complimenti, caspiterina, allora tu volevi sapere, infatti ti avevo detto, forse non ci siamo capiti, allora io sto usando un apparecchio professionale qua, in pratica sto usando Vicom 720 Alfa, linea completa, ok, alimentatore, diciamo diffusore, cassa, diciamo qualcosa, no, alimentatore, diciamo così, la linea completa, ok, microfono, panne, tutte, diciamo, color metallizzato, tutto qua la stazione. Perfetto, complimenti per il tuo apparecchio, caspitina, bellissimo, bello veramente. Riprendi a te, Claudio, il cambio. Sì, grazie, sono un cambio, sì, Mauro, sì, sta andando bene, che te lo conosco, l'abbiamo avuto, 140, bellissimo, il 430, 440, e che ti devo andare via, e adesso mi è rimasto il 757X, la Iaesu, e un altro Iaesu che abbiamo comprato, molto più grande del 757, il modello tratti, diciamo, di modulazione si sente questo piccolo innesco, che non è, diciamo, non è che sia fastidioso, però disturba un po', non so da cosa dipenda, magari dipende anche dal microfono, poi dipende, sì, forse anche dal microfono. Vabbè, comunque non fa niente, l'affaristo va benissimo e niente, dai, va bene così. Ok, perfetto, va bene, riprendi la storia di Mauro. Ciao, ci sentiamo alle prossime.